La Bolivia è il terzo produttore mondiale di cocaina dopo Perù e Colombia. Nonostante le problematiche legate al narcotraffico, il presidente boliviano Evo Morales ha intrapreso sul piano nazionale ed internazionale una campagna a tutela della foglia di coca e dei suoi usi tradizionali. In Bolivia, la legge 1008 del 1988 stabilisce che la coltivazione della coca non possa superare i 12.000 ettari su tutto il territorio nazionale. Morales vuole estendere questa misura a oltre 20.000 ettari. La Convenzione delle Nazioni Unite sulle droghe del 1961 sanziona la coca come stupefacente allo stato naturale. Il leader indigeno punta ad ottenere la depenalizzazione della foglia. Nel giugno del 2011 il Parlamento boliviano ha votato l'uscita dalla Convenzione, chiedendo una nuova ammissione con riserva in merito all'articolo 49, quello che proibisce la masticazione delle foglie. Se entro gennaio del prossimo anno 62 dei 184 firmatari dell'accordo non si pronunceranno a sfavore, la richiesta boliviana sarà automaticamente accolta. Gli Stati Uniti si sono già dichiarati apertamente contrari all'iniziativa di Morales, sostenuti da diversi paesi europei, mentre un altro blocco, capeggiato dalla Spagna, appare allineato sulle posizioni boliviane. Per comprendere a fondo la strategia di Morales ci spostiamo in Europa. È qui, a Vienna, che nel 1961 fu approvata la Convenzione internazionale sulle droghe, oggetto del malcontento boliviano. L'articolo 1 di questo trattato sanziona infatti la coca come stupefacente allo stato naturale, proibendo inoltre, nell'articolo 49, la masticazione delle foglie. Nel marzo 2009 Morales ha chiesto ufficialmente alle Nazioni Unite di modificare la Convenzione, con la soppressione dei paragrafi 2e ed 1c dell'articolo 49 che sanzionano gli usi tradizionali della foglia di coca. L'obiettivo della Bolivia è quello di armonizzare la legislazione internazionale con la propria Costituzione, che riconosce espressamente la coca come simbolo della cultura andina. Dal 2009 quella di Morales è stata una lotta a tappe, come ci spiega Roberto Calzadiglia, ambasciatore boliviano all'AIA e molto addentro alla questione. Entonces Bolivia presenta alla comunità internazionale su progetto di enmienda che la Bolivia ha presentato alla comunità internazionale il suo progetto di riforma dell'articolo 49, che trascorsi 18 mesi previsti è stato bocciato per mano degli Stati Uniti e del blocco degli amici della Convenzione. La Convenzione logra impedir la riforma dell'articolo 49. La comunità internazionale ha sido notificata attraverso la presentazione della denuncia che presenta Bolivia il 29 di giugno dell'anno passato. Lo scorso 29 giugno la Bolivia ha denunciato la Convenzione, chiedendo una nuova adesione con riserve in merito all'utilizzo, l'uso e il consumo della foglia di coca nel suo stato naturale. Della hoja de coca in suo stato naturale. Il governo sta aspettando che trascorrano questi 12 mesi affinché la comunità internazionale possa presentare le proprie obiezioni. L'intervento degli Stati Uniti è stato quindi decisivo. Facendo pressioni sui governi amici, tra cui Italia, Francia, Germania e Messico, Washington è riuscita a far presentare 18 obiezioni entro il 31 gennaio dello scorso anno, termine ultimo per boicottare l'iniziativa boliviana di riforma dell'articolo 49. La successiva denuncia della Convenzione, con conseguente uscita dalla stessa, ha rappresentato l'ultima mossa a disposizione di Morales. Se entro gennaio 2013 un terzo degli aderenti alla Convenzione, pari a 62 paesi su un totale di 184, non si pronunceranno a sfavore della richiesta boliviana di riammissione con riserva, quest'ultima sarà approvata. In sostanza, i divieti imposti dall'articolo 49 agli usi tradizionali della coca non troverebbero più applicazione limitatamente al territorio boliviano, rimanendo in vigore in tutti gli altri paesi firmatari del trattato. Potremmo citare gli appoggi, per esempio, che abbiamo ricevuto da parte di Spagna, también Suiza. Potremmo menzionare il sostegno ricevuto da Spagna, Svizzera, Portogallo ed Olanda. È stato su plena comprensione il caso di Olanda. Nel corso del 55° anniversario della Convenzione sulle droghe, celebrato lo scorso marzo a Vienna, Morales ha incontrato diversi capi di Stato per promuovere la propria iniziativa. Roberto Calzadilla ha fatto parte della delegazione boliviana. Abbiamo osservato che la Bolivia conta su un grande appoggio in merito alla questione della foglia di coca e al rispetto dovuto alle popolazioni indigene. Del rispetto che merecono los pueblos indígenas con sus tradiciones. Hemos encontrado también posiciones más duras. Durante gli incontri bilaterali abbiamo incontrato anche delle posizioni più contrarie, come quelle di Russia e Francia. Las posiciones que trae la Federación Rusa y, por ejemplo, gobiernos como el gobierno de Francia. L'opposizione degli Stati Uniti e dei loro alleati europei alla manovra boliviana è in parte legata al timore che questa determini un indebolimento nella lotta al narcotraffico. I dati forniti dall'Agenzia ONU per il monitoraggio sulle droghe sono d'altronde preoccupanti. La Bolivia è il terzo produttore mondiale di cocaina dopo Perù e Colombia, con 31.000 ettari di territorio nazionale coltivati a coca, equivalente ad un potenziale di 113 tonnellate metriche di cocaina. A questi numeri si aggiungono i rapporti di polizia circa la crescente attività dei cartelli messicani nel paese, oltre allo scandalo legato a René Sanabria. Ex capo dell'antidroga boliviana dal 2007 al 2009, a settembre dello scorso anno è stato condannato a 15 anni di carcere per narcotraffico da un tribunale di Miami, mettendo in grave imbarazzo la credibilità del governo Morales. Sotto accusa, infatti, è finita la strategia presidenziale di gestire in proprio la lotta al narcotraffico, che avrebbe indebolito i controlli e favorito la corruttibilità dei funzionari, in primis nel Chapare. La pensa così Umerez Valda, ex agente della Drug Enforcement Agency. Negli ultimi tempi è aumentata in maniera sproporzionata la produzione di cocaina. Riguardo al tema dei controlli, per esempio, prima esistevano molti posti di blocco per entrare ed uscire dal Chapare, e questo lo notava qualsiasi cittadino che passava per questa zona. Allo stato attuale esistono i posti di blocco, però non ci sono i funzionari preposti per questo tipo di controlli, ovvero è permessa la libera circolazione. Tutto ciò ovviamente preoccupa, facilitando la produzione e la commercializzazione di sostanze stupefacenti. Nonostante gli sforzi del governo boliviano, con oltre 10.000 ettari di coca estirpati nell'ultimo anno e gli accordi militari con la Russia nella lotta al narcotraffico, quest'ultimo ha pesantemente attecchito il tessuto economico e sociale del paese negli ultimi anni. Parte della comunità internazionale si chiede quindi se la Bolivia possa garantire che la legalizzazione degli usi tradizionali della coca non si traduca in un aumento delle coltivazioni, di cui beneficerebbe il narcotraffico. Il governo Morales ha dichiarato apertamente qual è lo scopo della sua lotta. A tal proposito appare decisivo uno studio, finanziato dall'Unione Europea, teso a stabilire quanta coca sia necessaria per soddisfare la domanda legale della stessa. I risultati sono attesi per il 2013, ma dai primi dati che filtrano sarebbe di circa 10.000 ettari la cifra necessaria, numeri che, se confermati, imporranno al governo drastiche misure nei confronti della coca che li eccede. Ci spostiamo ad Amsterdam per incontrare PM Tal del Transnational Institute, un centro di studi sulle politiche antidroga a livello mondiale. Le chiediamo un parere sulle differenti posizioni dei governi circa la domanda di riammissione alla Convenzione, con riserva, formulata dalla Bolivia. La Francia ha espresso una forte opposizione alla riserva richiesta e l'argomento utilizzato è il precedente che questa manovra crea nell'ambito giuridico internazionale. Gli altri paesi, Italia compresa, dovrebbero rimanere neutrali. C'è molta pressione politica da parte di Giappone e Russia, che sono i più contrari a qualsiasi tipo di modifica del regime attuale. Però al tempo stesso la Bolivia ha l'appoggio della Cina. Ai timori legati al narcotraffico si aggiungono quindi posizioni contrarie in merito alla procedura adottata dalla Bolivia, percepita come una forzatura, seppur legale, dell'ordinamento internazionale. Qual è dunque il futuro della manovra di Morales? Avrà successo? Sono 26 paesi europei e in Europa non sono molti quelli che appoggiano dichiaratamente la Bolivia. Solo la Spagna e qualcun altro. Sono molti paesi che Serve però un alto numero di paesi contrari per opporsi alla richiesta di riserva. Sarebbe raro se ci fosse tanta opposizione. Sarebbe molto strano che haya tanta opposizione. L'iniziativa boliviana appare dunque destinata al successo. Così il paese andino potrà nuovamente aderire alla convenzione. La lotta per la coca, prodotto del nuovo nazionalismo di matrice chavista della sinistra sudamericana, lascia però molti dubbi dietro di sé. Il rispetto dei costumi tradizionali deve andare di pari passo con la lotta al narcotraffico, ed in tal senso Morales dovrà garantire alla comunità internazionale piena affidabilità. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.